tifoso e uno sportivo. Tutto quello che fai è politica, le idee che hai, come quello che vuoi ottenere. Quindi anche chi dice io non faccio politica, in quel momento sta facendo una scelta politica, anche lui, capito?